Mix 24 di Giovanni Minoli. Fabbrica italiana automobili Torino è morta, lunga vita Fiat Chrysler Automobiles. Dopo 115 anni, infatti, lo storico gruppo automobilistico si trasformerà in FCA, Fiat Chrysler Automobiles, lascerà definitivamente l'Italia per ricollocare la propria sede legale in Olanda e quella fiscale in Gran Bretagna. Una fusione che non sarebbe un pericolo per l'Italia, Marconi ha assicurato di non voler chiudere gli stabilimenti. Dunque, il 1 gennaio del 2014 viene annunciato l'inizio dell'operazione di acquisizione da parte della Fiat del pacchetto azionario della Chrysler. Il 29, esattamente 2 anni fa, il consiglio d'amministrazione della Fiat approva la riorganizzazione societaria per creare un nuovo e unico gruppo. La fusione tra la Fiat e la Chrysler è una storia di successo, un gruppo globale nordamericano con una significativa presenza in Europa e in America Latina. Ma la Fiat è storia italiana, storia della famiglia Agnelli. Oggi, a 2 anni dalla nascita di FCA e a 13 dalla scomparsa, ricordiamo l'avvocato più celebre d'Italia, l'avvocato Gianni Agnelli, in questo faccia a faccia del 1984. Il potere ce l'ha da sempre e da 20 anni è il leader indiscusso degli industriali italiani. Ecco, che cosa le piace di più del potere? Quello che direi che è grave è avere responsabilità senza potere. Io non sono un assetato di potere, mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. E la cosa che le piace di meno? La cosa che mi piace di meno del potere è l'immagine che uno possa volerlo o amarlo. Avvocato, lei ha avuto tutto, ricchezza, potere, perché li ha ereditati, ma lei di suo ci ha messo qualcosa? I patrimoni si ottengono solo per speculazione, accumulazione o successione. Il caso mio è successione. Però poi quando si sono ottenuti dei patrimoni ci sono varie cose che se ne possono fare. Si possono assumere patrimoni con responsabilità o trattare senza responsabilità. Io di mio ci ho messo sempre la responsabilità che conseguiva dal patrimonio. Ecco, con questa responsabilità qual è la cosa più importante che ha fatto? Non capisco la domanda. La con questa responsabilità vuol dire che i suoi patrimoni erano aziende, erano occupazione di uomini, erano sviluppo. Mi sono sempre trovata a scegliere quali erano i quadri e i dirigenti di questi gruppi e ritengo di non averlo fatto mai. Ecco, ma lei pensa che sarebbe diventato ricco e potente lo stesso? In ogni caso, diciamo. No, credo molto probabilmente no. Ecco, ma c'è qualcosa che invidia a chi si è fatto da solo? Perché chi si è fatto da solo ha certamente una vita più avventurosa, una vita di maggiori rischi e più avventurosa. Ma io mi faccio pensare a cosa non invidio a quelli che si sono disfatti da soli, quanti ce ne sono. Avvocato, lei un giorno in televisione ha detto che la classe dirigente di questo paese, dell'Italia, è peggiore del paese. Ecco, ma lei in questo giudizio dove si mette? Fuori o dentro la classe dirigente? No, io mi metto dentro la classe dirigente, ma mi metto in una piccola parte della classe dirigente. Diciamo, la parte che è responsabile del 3-4% del GNP nazionale o della produzione industriale. E in questa parte di cui noi siamo stati responsabili, credo che la classe dirigente espressa da noi sia stata mediamente meglio di quella nazionale. Non le sembra modesto come ruolo? Mi sembra facilmente verificabile. Pensiamo a come si esaminano le categorie degli uomini e pensiamo a un grande scrittore siciliano, Sciascia. Mi ricordo che definiva gli uomini, un capo mafia o qualcuno definiva gli uomini fra di loro e diceva: gli uomini si dividono in 5 categorie, cioè gli uomini, e sono pochi, i mezzi uomini, i ruffiani, e sono in continuo aumento, gli ominicchi e i quacquaraquà, che era tutto il resto. Io quindi non in positivo mi definisco, ma in negativo le posso dire che non appartengo certo ai ruffiani. Avvocato, lei spesso dice che quello che è bene per Torino è bene per l'Italia, non le sembra troppo? No, io non lo dico mai, ma me lo attribuiscono sempre. Ma lo pensa o no allora? No, io quello che le dico è questo, che è un assurdo dire che quello che è bene per Torino è bene per l'Italia, però ho constatato 1000 volte che si dice quello che è male per Torino, quello che è male per la Fiat, è sempre un elemento di preoccupazione per l'Italia. Senta, ma lei parlando con Levi ha detto che la gente mi crede perché non ho mai abbandonato né l'automobile né la Fiat né Torino. Insomma, un proclama da re. Che cos'è Torino per lei allora? Quando lei dice un proclama da re, pensa all'appartenenza di qualcuno a qualche posto. La verità mia è che la mia appartenenza è nella Val Chisone. La Val Chisone si estende tra Pinerolo e Sestriere. Io mi trovo a casa mia quando mi lascio a destra la scuola di cavalleria, a monte, cioè il Monte Sises nella neve. Quelle sono le terre dove mi trovo a casa. Torino è una città dove siamo andati per lavorare, a Torino centro delle mie responsabilità, del mio lavoro, ed evidentemente la città a cui dedico più tempo. Ecco, senta, ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato, e per capire bene il calcio, il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato. Quindi senza dubbio lui. Sì, però lei ha anche detto, quando Boniperti non segue i miei consigli fa delle sciocchezze. Questa è un'altra cosa, delle sciocchezze ne ha fatte come? Delle sciocchezze ne ha fatte come? Quali sono Ma le questo ultime? Lo dicevo, guardi, per due ragioni. Una, perché voglio confortare, non so, i presidenti di altre squadre, Pontello e Viola, e fargli pensare che anche Boniperti fa delle sciocchezze. Qualcuna me la dice, l'ultima. Non è l'ultima, perché non voglio Vabbè, parlare insomma... di... Gliene dico una... divertente una e clamorosa, una divertente e clamorosa. Siamo ai campionati del mondo di 6 anni fa in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Boniperti dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Dico: si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei. Avvocato, parliamo di un'altra cosa frivola. Lei è un uomo molto amato dalle donne. Che effetto le fa questo? Se è vero non può che farmi piacere. Ecco, ma l'amore per le donne che cosa rappresenta nella sua vita? Se ha rappresentato qualcosa di importante? No, guardi, ci sono due tipi di uomini. Ci sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. Ma c'è qualcosa di importante allora che lei ha fatto nella sua vita per amore di una donna? Le ho detto, di donne preferisco non parlare. Parlavo di cose. Ne parla metà paese, metà del tempo. Non mi vuol neanche dire qual è la più bella che ha conosciuto? Ma questo è come il miglior calciatore, diciamo. No? Forse è Edi Lamar, se andiamo in quella generazione. Ma lei è innamorato? Lo ero difficilmente a 20 anni, si immagini se all'età mia sono innamorato. No? Ma lei crede in Dio? Mi hanno educato in questo senso e credo nel sistema in cui sono stato educato. Questo è un breve ricordo di un grande italiano a 13 anni dalla sua scomparsa. Ma oggi c'è l'Europa, col vertice tra Renzi e la Merkel, al centro dell'attenzione di tutti, e anche la Sora Cesira ha qualcosa da dire sull'Europa. Confini zompati, monete crollate e troppi immigrati da tutti quella rimpallati, e noi tutti insieme smoccoliamo, ma porca quella troica. La crescita zero, il PIL sotto al culo, ma che palle questo euro. Europa sì, Europa no. Europa sì, Europa no, Europa che ha poche certezze, ma una ve la svelerò. Ci abbiamo le pezze, prepariamoci, perché dopo l'euro sai che c'è. Fra noi popoli riuniti il baratto tornerà. Cullona sì, cullona no, cullona tedesca, decide lei chi campa o no. È mille terresca, anche il premier più ostinato sa che a lei non la si fa, e dalla sua stessa chiappa 2 o 3 etti le darà. La banca sì, la banca no, la banca centrale, mi sbaglierò ma sembra che ci faccia un po' male. Se governa la moneta, chi moneta non ce l'ha, conta come il di coppe se bastoni regnerà. E adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena di fare, vedere, leggere, ascoltare. Giovanni, aspetta, scusa, ma oggi ti devo chiedere una cosa. Qual è il tuo personaggio letterario preferito, considerando solo quelli dal dopoguerra a oggi? Ah, per me è facilissimo, è l'Adriano delle memorie di Margherita Yourcenar. Io lo immaginavo, e allora ascolta qua. Pacificare la terra, imprimere una forma e un ordine a tutte le cose. Questo fu il capolavoro a cui mi applicai tutta la vita, la linea della mia azione politica di imperatore di Roma. Gli antichi credettero divina la mia investitura. Non si trattava invece che di una piccola anima che vagava leggerissima nella multiforme complessità dell'universo. Ecco, e questo è il ritratto dell'Adriano della Yourcenar, fatto da Fabio Stassi nel suo libro Dei personaggi dal dopoguerra a oggi, pubblicato da Minimum Fax. Una galleria con 300 ritratti ordinati cronologicamente, in cui i più grandi eroi prendono la parola presentandosi o ripresentandosi al lettore. Da Lolita a Montalbano, passando per l'Aureliano Buendia di Cent'anni di solitudine e il Limonov di Carrère, ma anche la famiglia di Lessico familiare, la Parigi di Festa Mobile di Hemingway o la pallina da baseball di Underworld di De Lillo. Tutti raccontati con la penna dello scrittore e la passione del lettore. Vi faccio un altro esempio. Alessandro Chiappini, in regia, mi confermi il tuo preferito? Beh, il mio preferito è lo svedese di Pastorale Americana, sicuramente. Allora, lo svedese è anche uno dei miei preferiti. Eccolo, un predestinato al sogno americano, uno che non faceva mai cose sbagliate, che eccelleva in tutto, nello sport, nello studio, nell'impresa, che non cedeva all'ira. Ma nessuna barriera contro l'improbabilità avrebbe potuto salvarmi. La storia mi si parò davanti all'improvviso, nei panni dell'adolescenza ribelle, bombarola e balbuziente di mia figlia Mary, vandalizzando per sempre la mia illusione di tenere tutto sotto controllo, la mia fittizia felicità a stelle e strisce. Ecco allora, una sorta di appendice al dizionario di personaggi di romanzo di Gesualdo Bufalino, che si fermava poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, un viaggio che ci fa riscoprire i nostri personaggi preferiti e che, soprattutto, fa venire una grandissima voglia di scoprirne di nuovi. Il libro dei personaggi letterari di Fabio Stassi, Minimum Fax. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Io dico, porca quarta, questo. Donatella, ma che succede? E che succede? Mo te lo dico io che succede. Tu vai in chiesa e che fai? Che fai? E che faccio? Prego. Ma che preghi? Ti fidi, no? Ti fidi? E fai male? Perché poi ti succede come a me, che ti rubano il telefono. C'è questo nuovo che non si capisce un cazzo. Vabbè, senta Donatella, mi dispiace, però ci sarebbe il film Joy. E certo, tanto mica è tuo il telefono. Vabbè, comunque Joy è una ragazza un po', diciamolo, un po' disgraziata. Infatti, molti critici insomma, dicono che ricorda un po' quella sfigata di Cenerentola. Tu crescerai, diventerai grande e sarai una ragazza forte e molto intelligente. Andrai a scuola. Incontrerai un bel ragazzo. Avrai dei figli meravigliosi. Creerai delle cose bellissime. E questa è la vita che ti aspetta. Sì, vabbè. Lei però intanto lava un sacco per terra e le arriva pure un tipo che proprio principe non è. Però a lei va bene alla fine. E intanto però si fa un mazzo enorme, perché vuole diventare ricca alla faccia di tutti quelli che hanno provato a fregarla, capito? Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. Brava! Altro che quella moscia di Cenerentola, perché lei dice, ah sì, a voi mi fate pulire e io invento un attrezzo per pulire che vi comprate tutti, tutti ve lo comprate, infatti fa l'invenzione del secolo, il mocio! Vabbè, Donatella, del secolo. Adesso non esageriamo. Perché, scusa, tu non ce l'hai il mocio? Ma che c'entra, Donatella? Senta, ma parliamone... No, cioè, va bene, parliamo degli attori. Beh, sì, parliamone. Ci sta Jennifer Lowe. Però non la cantante, quella col culo grosso. Jennifer, quella che spara con l'arco in videogames. Hunger Games, Jennifer Lawrence. Vabbè. Chi? Poi c'è Cooper, quella che fa sempre i film con lei. Infatti, te lo dico, per me quelli stanno in società. E fanno apposta a fare film insieme. Perché fanno? Metà per uno poi. Pure 60 e 40. Donatella, questo lo dice lei. Senta, ma vale la pena vedere Joy di David Russell con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro? Guarda, alla fine fine io ho capito che ai film dove puliscono io preferisco quelli dove si ammazzano o al limite si amano e poi però si devono lasciare. Mica per niente, però io il morso lo passo tutti i giorni. Però il film è bello. Grazie, Donatella. Ma tu ce l'hai o no sto mocio? Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno. Pietrangelo, dove andiamo oggi? Oggi ti porto in sezione. Ah, quale? Ti porto. Ecco, siamo al numero 9 di via Ottaviano. E però, entrando, attenta, ecco, bisogna scendere le scale. Ecco, vedi, questo non è più una sala riunioni, ma diventa il campo di concentramento di Coltano. E adesso io ti indico uno per uno i personaggi che sono prigionieri qui. Guarda, quello è Ugo Tognazzi. Poi lo vedi, lo riconosci, Raimondo Vianello, Enrico Maria Salerno, Giorgio Albertazzi, Ernesto Calindri, e quello che fa il saluto romano, che dice, lo senti, sta dicendo, saluto quelli della decima, e dalla gabbia gli risponde Ezra Pound. Ecco, il birichino è Walter Chiari, e Mario Castellacci sta componendo proprio questa canzone. E ti porto qui, lo sai perché? Perché? Perché giusto ieri ho comprato un libro. Mio padre era fascista, di Pierluigi Battista. Buongiorno Pierluigi Battista. Buongiorno. Questo libro, Mio padre era fascista, è un libro ricco, duplice almeno, perché è la fotografia di una generazione che, nonostante la sconfitta, ha scelto di rimanere fedele all'ideologia e ai valori in cui era cresciuta e in cui aveva creduto, e si è ritrovata così esule in patria. Però è anche la storia di un'altra generazione, quella dei figli dei fascisti, che hanno scelto di stare dall'altra parte. E di cosa abbia significato essere figlio di un fascista e vergognarsi di aver provato vergogna per i padri che abbiamo tradito andandocene dall'altra parte e che invece hanno vissuto con dignità, coraggio e coerenza la loro solitudine. Insomma, Battista, lei racconta di come fino alla sconfitta del fascismo essere fascisti era la norma. Poi, di colpo, non lo è stato più quasi nessuno. Perché? Mio padre, per ragioni anagrafiche, perché è nato nel 22, esattamente 3 giorni prima della marcia su Roma, e una volta ho sentito mio nonno fascistissimo che rimproverava mia nonna perché non aveva aspettato 3 giorni, che così sarebbe stato il momento perfetto. Suo figlio è nato il 28 ottobre del 22. Insomma, per ragioni anagrafiche, naturalmente lui ha fatto tutta la trafila, balilla, avanguardista, eccetera, eccetera, e a 18 anni è andato volontario in guerra, e a 20 tra 20 anni, anzi 20 anni, decise di combattere con la Repubblica Sociale Italiana, per l'onore, per l'Italia, per Mussolini, eccetera. Lui nel dopoguerra non ha fatto politica attiva, non ha mai fatto politica attiva, ma ha sempre coltivato appunto questo sentimento di esule in patria, professionista, avvocato, borghese, diciamo integrato, ma questo lato apocalittico di una persona che comunque non voleva rinunciare a se stessa e che si sentiva un reietto dentro questa Italia democratica antifascista. Ecco, ma nell'assoluto ribaltamento ideologico tra essere tutti fascisti e non esserlo più, quanto è stato il frutto di una sincera revisione delle posizioni e quanto invece di una necessità anche obiettiva di non essere esclusi dalla nuova società cosiddetta civile e quindi di lavorare, di farne parte appieno e di tutto quello che ne consegue? Poteva benissimo mettere tra parentesi quello che si era stati. Bisogna contare che quelli che combatterono per la Repubblica Sociale, o comunque che avevano partecipato in qualche misura al governo di Salò, alleato dei nazisti, ha raccontato circa 500.000 persone, 500.000 famiglie italiane, si sono trovati improvvisamente senza una memoria, senza la possibilità di esprimersi. Io penso che queste storie invece vadano raccontate. Io non mi riconcilio con l'identità politica di mio padre, sia ben chiaro. Io mi riconcilio con l'idea che le persone non siano tutte risolvibili nella loro identità politica. Nell'Italia repubblicana c'è una contrapposizione netta tra la parte giusta e quella sbagliata. E c'è un passaggio molto forte nel libro in cui racconta della sua rottura psicologica con il mondo giusto. Ci sono voluti gli anni per ricordarsi determinate cose vere. Un cartello sotto il portone dove diceva giustizia proletaria è fatta a me, a mio marito, con 6 figli. Da quella notte per me non c'è più nessuno. Io non devo perdonare nessuno. Era la madre dei fratelli Mattei, bruciati vivi nel rogo di Prima Valle da estremisti di sinistra, quegli estremisti con cui lei gridava slogan per la strada. Come ha capito in quel momento, come lo racconta nel libro, che la parte giusta era anche la parte sbagliata? Fu per me un grandissimo trauma, per cui io ero uscito dalla casa fascista di mio padre, ma poi ho scoperto che la casa che avevo scelto di vivere in contrapposizione, in polemica con quella di mio padre, aveva degli aspetti anche mostruosi e raccapriccianti. E questa storia di Prima Valle è stato questo. Mio padre era uno degli avvocati della famiglia Mattei. Io gridavo appunto queste nefandezze nei cortei, come moltissime persone ispirate anche dai giornali dell'establishment, eccetera, per cui dicevano che era stata una faida tra fascisti, addirittura si parlava di fiamme tricolori. Mio padre mi fece una cosa che deontologicamente non poteva fare, cioè di farmi vedere le carte ancora non pubbliche del processo. Io capii tutto e lui mi diede proprio del cretino, come racconto in questo, sei un totale cretino. Questa cosa fu per me pazzesca, perché non avevo colto la mostruosità di quello che era accaduto. Cioè, un bambino di 10 anni dentro un lotto proletario di Prima Valle, 40 metri quadrati per 8 persone che ci vivono dentro, e arrivavano questi figli della parte giusta, questi figli un po', diciamo, vezzeggiati, coccolati, accuditi dalla parte giusta, che con un gesto di criminale futilità, diciamo così, hanno cosparso di benzina il pianerottolo. Probabilmente nella loro vita non hanno mai visto un appartamento di 40 metri quadri, e quella cosa lì è stata cancellata dalla memoria collettiva. Questa cosa qui per me è stato un elemento che mi ha straziato, cioè nel senso, questo silenzio. Insomma, ma c'è stato un momento di pietà per quel bambino? Non c'è stato un momento di pietà. Battista, comunque, prima c'era da vergognarsi a essere figli di fascisti. Adesso siamo arrivati alla vergogna di aver provato vergogna. Che è successo? Abbiamo finalmente imparato a separare l'uomo dalla sua appartenenza politica? Io penso che questo libro 20 anni fa non avrei potuto scriverlo con questa, diciamo, con lo spirito con cui l'ho fatto adesso. Cioè, eravamo ancora troppo immersi dentro una storia il passato che ci tirava indietro. La parte giusta o la parte sbagliata era ancora troppo immersa? La parte giusta e la parte sbagliata, nel senso che anche la parte sbagliata era così avvelenata di rancori che per cui non si riusciva a risolvere questa cosa. Io racconto l'episodio di Fiuggi, cui penso che quando il movimento sociale, mio padre era già morto da 4 anni, il movimento sociale si scioglie e nasce Alleanza Nazionale. Io lo vado lì a seguire professionalmente. E lì ho capito che quel mondo, il mondo del dopoguerra, il mondo che ci aveva, per cui ci eravamo scannati io e mio padre, quel mondo era finito. Grazie Pierluigi Battista. Mio padre era fascista, Mondadori. Pietrangelo? Saluto Battista, raccomando il suo libro, è Avvelenato come sono nella parte sbagliata. Vi saluto tutti con questa canzone. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Dai padri alle madri, perché da oggi con Alessandra Cravetto c'è un nuovo spazio dedicato a tutte le mamme, anzi no, a tutte le smamme del mondo. Ecco Alessandra, innanzitutto, ma chi sono le smamme? Le smamme sono un po' tutte, sono quelle che hanno i figli, hanno il lavoro, hanno il marito. A volte. Ogni tanto, spesso hanno il frigo vuoto, qualche volta la macchina rotta, sempre gestione dei bambini delegata ad altri e un senso di colpa costante. Senti, ti faccio un test per capire quanto sei smamma. Vai. Questa settimana quante volte sei andata a prendere tua figlia a scuola? Silenzio. Quante volte sei andata a prenderla, a portarla a ginnastica, danza, musica, calcio, judo? Silenzio. Ma soprattutto, quante volte hai detto, amore, oggi ho tutto il pomeriggio libero e lo dedico a te? Il silenzio si fa pesante. Ecco, benvenuta nel Club delle Smamme, Ale. Ho vinto qualche cosa? No, per ora no, però a noi smamme la tecnologia ci può dare una mano. Ci sono delle app. App, okay. Che in questo caso, nel nostro caso, non sta per applicazioni, ma per app. pigli. Senti qua. E che paura! Una paura tremenda. Sì, eh. Però qualcuno dentro il tunnel del bebè c'è ancora. Però tranquille, la soluzione c'è e arriva da Taiwan. È una app, appunto, che si chiama Infant Cries Translator. Un vero e proprio traduttore del pianto del neonato. Ah, ho capito adesso, facciamo strano ma vero. Così. Strano ma vero, ma ti giuro non l'ho letto sulla settimana enigmistica. Eh? Cavalli e fantini? Più o meno, qualcosa okay. del genere. Allora, funziona così. Tu registri per 10 secondi il pianto dell'adorato bebè e sul tuo telefono, come per magia, arriva una risposta. Mamma, ho fame. Mamma, sono stufo, cambiami, sono 6 ore. Così. Esatto, oppure semplicemente mamma sto benissimo, per cui tu ti tranquillizzi, è soltanto che mi sto annoiando a morte, ti prego fai qualcosa. Ecco appunto, scusa, ma allora in quel caso? In quel caso tu te ne stai tranquilla, prendi il tuo senso di colpa e gli dici smamma. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopo guerra, pettinate come lei. E come sempre arriva la musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Buongiorno Alessandra. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Alessandra, ti ricordi quando quest'estate facevamo quel bellissimo programma sulla musica italiana? Sì. Dove ripercorrivamo la storia dell'Italia attraverso le canzoni, sì. eccetera. Beh, la stessa idea l'hanno avuta Mogol, grande, straordinario poeta, e il paroliere Andrea Mingardi, più che paroliere musicista e anche conduttore d'orchestra, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, loro hanno deciso di fare uno spettacolo. Uno spettacolo che ci farà ripercorrere oltre 50 anni di vita, dove verranno raccontate storie, eventi e cambiamenti del nostro paese. E noi andiamo. E noi andiamo. Sabato 30 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini. Alessandra, Federica Fornabaio, ti piace? Moltissimo. Lo sai, non la conosco, ma mi piace moltissimo. Se vai su Spotify. Esatto, come lì io vado, tu. Adesso io esco da qui e vado su Spotify. Scoprirai che è diventata veramente un cult. Ecco, Federica è una pianista, compositrice, direttrice d'orchestra e arrangiatrice italiana molto, ma molto in gamba. L'appuntamento è domenica 31 gennaio all'Auditorium di Roma. Due appuntamenti da non mancare. Gioachino Rossini è stato un compositore straordinariamente autentico e moderno. È entrato nella storia grazie al Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, Guglielmo Tell. Un genio precoce, pensate che a soli 14 anni è già professore di canto all'Accademia Filarmonica di Bologna. Rossini ha vissuto l'età di Napoleone e la restaurazione, i moti rivoluzionari e l'unità d'Italia. È la storia appassionante di un grande italiano, ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.